Atto quinto di La Mandragola di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Oh, dolce notte. O sante ore notturne quete, chi disiosi amanti accompagnate, in voi s'adunan tante letizie, onde voi siete sole, cagion di far l'alme beate. voi giusti premi date all'amorose schiere delle lunghe fatiche. Voi fate, o felici ore, ogni gelato petto arder d'amore. Atto quinto, scena prima. Frate, solo. Io non ho potuto questa notte chiudere occhio. Tanto il desiderio che io ho di intendere come Callima e quegli altri l'abbiano fatto. Ed ho atteso a consumare il tempo in varie cose. Io dissi mattutino, lessi una vita dei santi padri, andai in chiesa ed accesi una lampana che era spenta, mutai uno velo ad una Madonna che fa miracoli. Quante volte ho io detto a questi frati che la tenghino pulita, e si maravigliano poi se la divozione manca. Io mi ricordo esservi 500 imagine, e non ve ne sono oggi 20. Questo nasce da noi, che non le abbiamo saputa mantenere la reputazione. Noi vi solavamo ogni sera, dopo la compieta, andare a processione, e farvi cantare ogni sabato le laude. Votavanci noi sempre quivi, perché vi si vedessi delle imagini fresche. Confortavamo nelle confessioni gli uomini e le donne a votarvisi. Ora non si fa nulla di queste cose, e poi ci maravigliamo se le cose vanno fredde. Oh, quanto poco cervello in questi miei frati! Ma io sento uno grande rumore da casa. Messer Niccia, eccoli per mia fe. E cavano fuori il prigione. Io sarò giunto a tempo. Ben si sono indugiate la sgocciolatura e si fa appunto l'alba. Io voglio stare a udire quello che dicono, senza scoprirmi. Atto quinto, scena seconda. Messer Nicia, Ligurio, Siro. Piglialo di costà ed io di qua, e tu, Siro, lo tieni per il pitocco di Drieto. Non mi fate male. Non avere paura. Va pur via. Non andiamo più là. Voi dite bene. Lascialo ire qui. Diamgli due volte che non sappi donde el sia venuto. Giralo, Siro. Ecco. Giralo un'altra volta. Ecco fatto. Il mio liuto. Via, ribaldo. Tira via. Se ti sento favellare, io ti taglierò il collo. E se è fuggito? Andiamoci a sbisacciare e vuolsi che noi usciamo fuori tutti a buon'ora, a ciò che non si paglia che noi abbiamo vegliato questa notte. Voi dite il vero. Andate voi e Siro a trovare Maestro Callimaco e gli dite che la cosa è proceduta bene. Che gli possiamo noi dire? Noi non sappiamo nulla. Voi sapete che arrivate in casa, noi ce ne andammo nella volta a bere. Voi e la suocera rimaneste alle mani seco e non vi rivedemo mai se non ora, quando voi ci chiamasti per mandarlo fuori. Voi dite il vero. Ah, io v'ho da dire le belle cose. Mogliema era nel letto al buio. Sostrata m'aspettava al fuoco. Io giunsi su con questo garzonaccio e perché non andassi nulla in capperuccia, io lo menai in una dispensa che io ho in sulla sala, dove era uno certo lume annacquato e gittavo un poco d'albore in modo che non mi poteva vedere in viso. Saviamente. Io lo feci spogliare. E nicchiava. Io me li volsi come un cane, di modo che gli parve mill'anni d'avere fuori i panni, e rimase ignudo. Egli è brutto di viso, egli aveva un nasaccio, una bocca torta. Ma tu non vedesti mai le più belli carni. Bianco, morbido, pastoso. e dell'altre cose non ne domandate. E non è bene ragionarne, che bisognava vederlo tutto. Tu vuoi il giambo? Poi che aveva messo mano in pasta, io ne volsi toccare il fondo. Poi volsi vedere se gli era sano, se gli avessi avuto le bolle dove mi trovavo io. Tu ci metti parole. Avete ragione voi. Come io ebbi veduto che gli era sano, io me lo tirai dietro, e dal buio io lo menai in camera, messi a letto, e innanzi mi partissi, volli toccare con mano come la cosa andava, che io non sono uso ad essermi dato ad intendere lucciole per lanterne. Con quanta prudenza avete voi governata questa cosa? Tocco, e sentito che io ebbi ogni cosa, mi uscii di camera e serrai l'uscio e me ne andai alla suocera che era al fuoco, e tutta notte abbiamo atteso a ragionare. Che ragionamenti sono stati i vostri? Della sciocchezza di Lucrezia, e quanto egli era meglio che senza tanti andirivieni ella avessi ceduto al primo. Di poi ragionammo del bambino, che me lo pare tuttavia avere in braccio il naccherino. Tanto che io sentii suonare le 13 ore, e dubitando che il dì non sopraggiungessi, me ne andai in camera. Che direte voi che io non poteva fare levare quel rubaldone? Credolo. E gli era piaciuto l'unto. Pure si levò, io vi chiamai e l'abbiamo condotto fuori. La cosa è ita bene. Che dirai tu, che me ne incresce? Di che? Di quel povero giovane, che gli abbia a morire sì presto e che questa notte gli abbia a costare sì cara. Oh, voi avete e pochi pensieri. Lasciatene la cura a lui. Tu dia il vero, ma mi pare bene 1000 anni di trovare maestro Callimaco e rallegrarmi seco. E sarà fra un'ora fuora? Ma gli è chiaro il giorno. Noi ci andremo a spogliare. Voi che farete? Andronne anch'io in casa a mettermi i panni buoni. Farò levare e lavare la donna e farolla venire alla chiesa ad entrare in santo. Io vorrei che voi e Callimaco fossi là e che noi parlassimo al frate per ringraziarlo e ristorarlo del bene che ci ha fatto. Voi dite bene. Così si farà. Atto quinto, scena terza. Frate, solo. Io ho udito questo ragionamento, e m'è piaciuto, considerando quanta sciocchezza sia in questo dottore. Ma la conclusione ultima mi ha sopramodo dilettato. E poiché debbono venire a trovarmi a casa, io non voglio star più qui, ma aspettarli alla chiesa, dove la mia mercanzia varrà più. Ma chi esce di quella casa? E mi pare Ligurio, e con lui debbe essere Callimaco. Io non voglio che mi veggano per le ragioni dette. Pure, quando non venissino a trovarmi, sempre sarò tempo andare a trovare loro. Atto quinto, scena quarta. Callimaco, Ligurio. Come io t'ho detto, Ligurio mio, io stetti di malavoglia infino alle 9 ore. E benché io avessi grande piacere, non mi parve buono. Ma poi che io me le fu dato a conoscere, che io l'ebbi dato ad intendere l'amore che io le portava, e quanto facilmente, per la semplicità del marito, noi potavamo vivere felici senza infame alcuna, promettendole che qualunque volta Dio facessi altro di lui, di prenderla per donna. Ed avendo ella, oltre alle vere ragioni, gustato che differenza è dalla iacitura mia a quella di Nicia e da baci d'uno amante giovane a quelli d'uno marito vecchio, dopo qualche sospiro disse: «Poiché l'astuzia tua, la sciocchezza del mio marito, la semplicità di mia madre e la tristizia del mio confessoro mi hanno condotto a fare quello che mai per me medesima avrei fatto, io voglio giudicare che venga da una celeste disposizione che abbi voluto così, e non sono sufficiente a ricusare quello che il cielo vuole che io accetti. Però io ti prendo per signore, padrone, guida, tu mio padre, tu mio difensore, e tu voglio che sia ogni mio bene, e quello che il mio marito ha voluto per una sera voglio che egli abbia sempre. Farai ti adunque suo compare, e verrai questa mattina alla chiesa, e di qui ve ne verrai a desinare con esso noi, e l'andare e lo stare starà a te, e potremo ad ogni ora e senza sospetto convenire insieme». Io fui, udendo queste parole, per morirmi per la dolcezza. Non potetti rispondere alla minima parte di quello che io avrei desiderato, tanto che io mi trovo il più felice e contento uomo che fussi mai nel mondo. E se questa felicità non mi mancassi, o per morte o per tempo, io sarei più beato che beati, più santo che santo. Io ho gran piacere d'ogni tuo bene, e etti intervenuto quello che io ti dissi, appunto. Ma che facciamo noi ora? Andiamo verso la chiesa, perché io le promisi d'essere là, dove la verrà lei, la madre e il dottore. Io sento toccare l'uscio suo. Le sono esse, ed escono fuora, ed hanno il dottore drieto. Avvianci in chiesa, e là aspetteremo. Atto quinto, scena quinta. Messer Nicia, Lucrezia, Sostrata. Lucrezia, io credo che sia bene fare le cose con timore di Dio, e non alla pazzaresca. Che sai gli a fare ora? Guarda come ella risponde, la pare un gallo. Non ve ne maravigliate, ella è un poco alterata. Che volete voi dire? Dico che egli è bene che io vada innanzi a parlare al frate e dirgli che ti si facci incontro in sullo uscio della chiesa per menarti in santo, perché gli è proprio stamane come se tu rinascessi. Che, non andate? Tu sei stamane molto ardita, ella pareva iersera mezza morta. Egli è la grazia vostra. Andate a trovare il frate, ma non bisogna, egli è fuori di chiesa. Voi dite il vero. Atto quinto, scena sesta. Frate, Messer Nicia, Lucrezia, Callimaco, Ligurio, Sostrata. Io vengo fuora, perché Callimaco e Ligurio m'hanno detto che il dottore e le donne vengono alla chiesa. Buona dies, padre! Voi siate le benvenute, e buon pro vi faccia, Madonna, che Dio vi dia a fare un bel figliuolo maschio. Dio è il voglia! E lo vorrà in ogni modo. Veggo in chiesa Ligurio e Maestro Callimaco? Messere, sì. Accennateli. Venite. Dio vi salvi. Maestro, toccate la mano qui alla donna mia. Volentieri. Lucrezia, costui è quello che sarà cagione che noi avremo un bastone che sostenga la nostra vecchiezza. Io l'ho molto caro, e vuoi sì che sia nostro compare. Or benedetta sia tu. E voglio che lui e Ligurio venghino stamani a desinare con esso noi. In ogni modo. E vo dare loro la chiave della camera terrena ad in sulla loggia, perché possino tornarsi quivi a lor comodità, che non hanno donne in casa e stanno come bestie. Io l'accetto per usarla quanto mi accaggia. Io avere denari per la limosina. Ben sapete come, domine, oggi vi si manderanno. Di Siro non è uomo che si ricordi. Chi egga ciò che io ho è suo. Tu, Lucrezia, quanti grossoni hai a dare al frate per entrare in santo? Dategliene 10. Affogaggine! Voi, Madonna Sostrata, avete, secondo mi pare, messo un tallo in sul vecchio. Chi non sarebbe allegra? Andiamne tutti in chiesa, e qui vi diremo l'orazione ordinaria. Di poi, dopo l'ufficio, ne andrete a desinare a vostra posta. Voi, aspettatori, non aspettate che noi usciamo più fuora. L'ufficio è lungo e io mi rimarrò in chiesa e loro, per l'uscio del fianco, se ne andranno a casa. Valete! Fine dell'atto quinto. Fine di La mandragola di Niccolò Machiavelli.